porta i guanti ma non ha le mani. Babilonia sui ceppi ardenti e i arazzi sullo sfondo. È piacevole se ti arrendi, Babilonia l'empio solco profondo. Babilonia sui ceppi ardenti e gli arazzi sullo sfondo. È piacevole se ti arrendi, Babilonia l'empio solco profondo. Mai di certo hai visto sogni scintille fra le mani, più colpevoli di questo, più soffusi e più lontani. Se il tuo amore è nato al centro e non sai ancora tremare, Babilonia ti insegna presto, Babilonia sa come fare. Se il tuo amore è nato al centro e non sai ancora.